Infatti, sino a che non si raffredda. Ma deve essere impegnato, deve essere. Suppongo di sì. Un po' per il lavoro durante il giorno, un po' la sera, quando rientra da lavoro. A meno che lo sta facendo straordinario, che lo sa, può anche essere così. Tutto è possibile nella vita. Vabbè, comunque. Prima le cose serie e poi i rumbi. Avanti, Bacchetti. Così. Quando stia lavorando, perché l'abbiamo trovata con un tavolo con lei. Avanti ieri, così è troppo. Bello, avanti ieri. Avanti ieri. A mezzogiorno, con una cosa del genere, sto andando a casa. Deve essere in ferie. Che può essere anche quello, può essere che sia andato a mare, visto che lui ha anche la passione della pesca, e magari ci fa una battuta di pesca anche, perché no? E fatto bene, d'altronde, le passioni bisogna frequentarle e esaurirle, perché così è giusto che sia così. Avanti tu. Quello mi sa che dopo la stagione estiva comincia a farsi la pesca la mattina. Ah, così è, dopo la stagione estiva? Cioè, perché nella stagione estiva non va bene a fare la pesca, o troppo si fatica, ma che beccaggio. Infatti, gruggallo, uraienti in spiaggia, e tu canto invece, quando comincia a cercare i boggaglienti, entri tranquillo a Rigè di Manzano, e noi ci un po' garido un paio d'ori, ti hai fatto una beccata e ti innalli. Anche quella è un'idea, anche quello si sembra, giusto? È vero, perché sei più tranquillo, non vieni disturbato da nessuno, certo. Va bene anche così, anzi forse va meglio, sicuramente va meglio. Avanti, ma chi gioca sempre su stesso, non ti intendo più. Io non ti sento, la radio è sparita. Torbati, solo segnale. Avrà problema di microfono, Tore, forse ha problema di microfono. Stavo provando col microfono innovato. È con l'innesco quel microfono lì, non so se hai qualcos'altro acceso lì vicino, però adesso in questo tuo passaggio che hai fatto c'era un innesco. E c'era la radio accesa. No, sto provando un microfono a capsulina che non funziona. Il mio ascoltatore, immaginate un po' che siamo due passi. Certo, evidentemente no, perché il segnale c'era, però non c'era radio. Il segnale c'era, sempre uguale, però radio non c'era per niente. E va bene, anche i microfoni si guardano tante volte. Avanti, to. Infatti, un sacco di voci. Purtroppo è così. Anche loro hanno diritto di guastarsi. Stasera questo baracchino non mi sta facendo rispetto, perché in quei giorni scorsi, dopo un po' di tempo, mi faceva rispetto, non so per quale motivo, comunque stasera non me l'ha fatto e sono contento così. Forse era stanco in quei giorni scorsi, oggi era più riposato, perché era alcuni giorni che non modulavo, avete considerato che non sentivo nessuno. Avanti, Bacchi. In questi giorni di festa la gente è al mare, in montagna, a casa non c'era più nessuno. Quello è vero, io invece non ci vado al mare, io rimango a casa. D'altronde, cosa vuoi fare? Purtroppo, parto sempre da quell'idea lì. Tanto vai, esci, ti devi avvicinare a qualcuno e non puoi avvicinarti. Devi stare con la mascherina, trovi un amico, non gli puoi stringere la mano per salutarlo. Oppure non puoi entrare in un bar con lui per prendere un caffè. Se che tanto male, te ne stai in casa, prima o poi finirà questo fatto del coronavirus. Cosa volete dire? Certo che ci ha penalizzato molto, siamo a 6 mesi, siamo tappati in casa, perlomeno io. Esco solo in momenti molto particolari, come ad esempio a prendere la pensione, qualche volta a fare la spesa, ma mi limito a queste cose e basta. Poi per tutto il resto, sempre in casa. Vai, Tore. Ah, io già so chi scendi. Io esco, faccio le mie cose, Ah, da voi, già ci troviamo con Bacchisio anche. Ah, da voi, arrivederci. Lo so, io però ho paura, perché la patologia che ho, e dunque non vorrei rischiare, ecco, tutto lì, anche se credo di essere uscito, ma questo me lo diranno quando farò l'ulteriore visita. Prima eri a Oristano, me l'hanno sconsigliato di andarci, non ci venire, allora ho prenotato sempre tramite Cupo e me l'hanno assegnato per il mese entrante a Nuoro. Boh, allora vediamo, voglio avere figlia. Saremo a vedere, avanti Bacchi. Ehi, perché di Cupo, ce la possiamo andare giù? Sì, io avevo fatto la prenotazione tempo fa, e il mese scorso sarei dovuto andare a Oristano, due giorni prima mi hanno chiamato, non ci venga perché è troppo rischioso, e poi siamo chiusi, non stiamo facendo visite. Sono passati un bel po' di giorni, minimo 20-30 giorni, e ho fatto di nuovo richiesta al CUPO, sempre tramite telefono, e questa volta me l'hanno assegnato al Nuoro, quella visita che avrei dovuto fare precedentemente. E adesso vediamo che non me la disdicano anche a Nuoro. Volevo dire, devo andare il 9 settembre, devo andare a Nuoro. Speriamo bene, volevo dire, io sono anche la telefonata al CUPO, infatti io ho una visita, dobbiamo fare l'11 novembre, siccome il CUPO era chiuso mi stavo andando, ma tu mi stai dicendo via telefono, accettano, domani o lunedì ci provo. Ma io avevo, dopo la prenotazione che ho fatto per Nuoro, ho ritelefonato, dietro consiglio stesso di quello che aveva risposto al telefono, per vedere se c'era una possibilità di farlo a Sassari, qui a Sassari, e mi aveva detto c'è una possibilità ad Alghero, anziché a Nuoro ad Alghero, però anziché essere a settembre a ottobre, e allora rimandando, ho detto no, lascia stare, allora preferisco tenermi quella per Nuoro e non se ne parla più, perché non posso stare da settembre a ottobre, è un altro mese, già l'avrei dovuta fare da due mesi fa questa visita, e se ti trattini ma cura non va bene, anche perché questa ulteriore visita che devo fare serve perché mi devono assegnare il proseguo della terapia, adesso tra un po', infatti ci dovrò andare prima della fine di questo mese per potermi prenotare per la visita che dovrei iniziare di nuovo a settembre. Avanti ciò. Già così sì, purtroppo. Anche io devo fare una visita oculistica e ancora non ci vede, adesso lunedì ci riprovo, lunedì o martedì ci riprovo a vedere. Anche quella è la stessa cosa, ma tutti gli ambulatori ospedalieri sono tutti chiusi. Io questa visita la volevo fare a pagamento, devo immaginare, 300 euro, ma Valencia l'avrei fatta, però nel modo come la devo fare non la fanno in privato. Per cui allora sono costretto ad aspettare il giorno 9 del mese entrante per poter andare a Nuoro, sperando sempre che non mi facciano di nuovo la desetta, speriamo di no. Avanti Bacchi. Un po' problematico. Devi pensare che io ero a marzo e mi hanno chiamato l'altro giorno, sono 15 giorni fa, sono 20 giorni fa. Mi hanno chiamato per la visita. Adesso devo subire un intervento, ma ne parliamo fra 15 giorni, fra una settimana, fra un mese, fra 6 mesi, fra un anno. Campo cavallo mio, come va a crescere? È così. No, perché questa visita che io a completamento di altre due visite che ho fatto prima, da allegare anche questa terza, e con questi tre controlli, con questa che dovrò fare adesso, poi mi stabiliscono il proseguo della terapia, che era una terapia che mi avevano detto verrà interrotta per 6 mesi, e adesso io dal prossimo settembre dovrò di nuovo posso fare di nuovo questa terapia qua per altre tre settimane di seguito, per cui e poi si verrà più da ancora, non lo so, insomma devo completare tutto il ciclo, ma me la fanno così di tanto in tanto, no? Mi fanno un po' di terapia, poi mi fanno smettere, poi riprendo dopo un po' e così via, o qualche, saremo a vedere, voi lo volete di via, che Dio ce la mandi buona, tutto lì, avanti Tore. Speriamo che si sciogliano i ricchi. Continua questa cosa così non riusciamo a fare più nulla, è tutto in ritardo. È tutto bloccato, per giunta adesso ci sono questi deficienti che vanno in discoteca e a contagiarsi l'uno con l'altro, se continua così gli ospedali avevano incominciato ad aprire di nuovo i vari reparti per fare le visite eccetera, ma se continuano a contagiarsi chiudono di nuovo tutto e allora siamo proprio forse mai a vero, perché se non ci sarà più possibilità di fare controlli nei tempi stabiliti, cosa vuol dire? Speriamo bene, avanti i bacchi. Cammina il tempo, insomma, per quanto per i bambini li ho preso in giro, non ho infestato tutta la Sardegna, perché la Sardegna è un'isola, non fa entrare nessuno, buttali a mare, poi non cadono a cose, è una pazzia, se li metti una prova le braccia, io vengo in Sardegna e li raccogliamo noi. Senta là, mi quando apri le cuori, mi vedi di casino, che c'è più di un bambino, più di un giovane si ammalerà. Le banche sono distanziate a distanza di sicurezza, poi con la mascherina a scuola, figurati, e prima di entrare a scuola i bambini non si avvicinano l'uno con l'altro, figurati se stanno pensando a questo particolare del contatto, ne capiscono molto i bambini, lui avrà più di uno avrà a contagiare e più di uno avrà a morire dei febbricini, speriamo che non succeda, perché sarebbe brutto veramente. Però il governo è troppo in confusione, il governo non sa cosa capisce meglio, no, non è possibile che si possa andare avanti con una amministrazione della politica di questo stampo, perché sono assolutamente incompetenti in tutto e per tutto. Non lo so voi, tipo ad esempio tu mi metti la multa, mi chiudi le aziende e non le fai lavorare eccetera, e poi però mi permetti che vengano a flotte da fuori, dall'estero, tutti tanti contagiati in barche, in barchette, in nave eccetera eccetera, noi li paghiamo, noi li mangiamo, noi li vestiamo e poi li dobbiamo anche curare e intanto nel frattempo ci contagiano, ma è una vergogna, abbiamo un governo che è una vergogna, guarda, avanti Tore. Purtroppo è così, se riescono a tenerli in isolamento tutto andrà bene, se no noi burro è peggio. Ma guarda, se da Caligna sono arrivati una greffa di sono arrivati venire da roba di 30 tutti quanti positivi, è inutile che li metti in quarantena, e poi in quarantena però su fiducia, no? Sulla fiducia, ma sei convinto davvero che quello tu lo metti in quarantena e rimane in quarantena? Se tu lo metti in quarantena lo devi obbligare e lo devi anche controllare, non dargli la quarantena fiduciaria così, perché gli suisci esce e si va a diluire le basi di Rabidai o addirittura scappa e se ne va da qualche altra parte. Quale quarantena di fiducia gli devi dare? Tu gli devi dare la quarantena, lo devi anche farlo restare agli arresti praticamente, come quando uno ha gli arresti domiciliari, devi stare secco e peggio, senza uscire da quello stabile, da quel posto dove ti assegnano. Ecco come, invece no, hai la fiducia, in quarantena fiduciaria, e così gli sono uscendo il male di beate. Vai, ma chi? Così giù, è proprio così, bisogna controllarli dal pelo sulla testa, invece no, sono stato bravo, dice in quarantena, la gara di sci esci, buonanotte, se non potrà stare la quarantena. Bene signori, per me è arrivata l'ora del merendero, le medicine mi aspettano, e sentiamo. Ciao Giulio, mi ha fatto piacere ascoltarti, fare quattro chiacchiere, ciao Tore, buona serata anche per te, saluto i rispettivi, problemi familiari. Bacchini, ascolta fino a lì, ma poi faccio in QRT, riprendi Giulio. Ok, ciao Bacchini, grazie a te per la chiacchierativa, dai, ci sentiremo in questi giorni, magari cominciando anche da domani, e fra non molto mi chiameranno anche a me, sono già le 8, per cui adesso fra non molto sto aspettando già la chiamata per la cena, per cui continuo con Tone, vai Tone, avanti. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo. Giulio, anche io sto chiudendo, che mi giacciamelli. Ci sentiamo alle prossime, ok, ciao Giulio, ciao Battisio, alle prossime. Ok, ciao Tone, grazie anche a te per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo casomai domani se coincide. Ciao di nuovo Battisio, alle prossime, ciao, chiudo. Ciao Giulio, ciao Tone.